il cittadino, il solito buon cittadino democratico, sapete, quello che lavora quando trova da lavorare, paga le tasse, si abbona a Radio Popolare, sostiene il PUL di Milano anche se non gli dispiacerebbe una revisione del processo Calabresi e vota per l'Ulivo, magari sacramentando un po' quando l'Ulivo gli propone da votare ex democristiani o ex dirigenti della Confindustria, e il cittadino apprende dai giornali che la Banca d'Italia ha ridotto il tasso di sconto. E che esso tasso di sconto è ormai giunto al 5% e ai livelli più bassi che mai si siano visti dai primi anni 70. Lui veramente, salvo eccezioni, cosa esattamente sia il tasso di sconto e perché sia meglio averlo basso che alto, non lo sa. Ma tutti gli spiegano che la notizia è veramente buona, che è un grande successo della politica economica del governo, che solo un genio come Ciampi poteva arrivarci, e quindi se ne rallegra sinceramente. D'altra parte, vede che in televisione i commenti del popolo sono piuttosto stizziti, che i sindacati esultano, che la Confindustria protesta ma solo perché la riduzione non è abbastanza, e che il feroce ministro olandese dell'economia sventola il documento economico del governo italiano come se fosse la formula di una nuova specie di tulipani, e per cui dice, si fa presto a criticare, ma questi miei governanti sono davvero in gamba, porca loca, sono due anni che gestiscono la cosa pubblica, ci hanno già portato in Europa e per di più adesso abbassano il tasso di sconto, vorrei vedere quegli altri con tutte le arie che si danno. Poi naturalmente, presto o tardi il cittadino scoprirà che l'ingresso in Europa significa che il bilancio dello Stato verrà messo in regime di sorveglianza speciale col preciso scopo di impedire che un solo soldo in più vada a incrementare i servizi sociali di cui lui ha bisogno, e che scoprirà anche che il tasso di sconto regola i livelli di interessi bancari, per cui lui che ha bisogno di denaro in prestito dalle banche non ne ha, da quella riduzione non ha poi tantissimo da guadagnare, anzi, visto che i suoi risparmi sono sotto forma di conti correnti, libretti di risparmio e affini, sono tecnicamente del denaro che lui presta alle banche, sui relativi interessi le banche stesse si faranno subito un bel sconto a sue spese. Sì, certo, presto o tardi il sistema creditizio ridurrà gli interessi del denaro che presta agli imprenditori, alle aziende e a simili, ma capirete che al singolo lavoratore salariato o al singolo pensionato questo non interesserà poi tanto. Per farsi prestare del denaro bisogna avere una valenza economica che lui non ha. Lui per ora ha solo il privilegio di finanziare, grazie alla diminuzione degli interessi che percepisce al continuo aumento delle spese di gestione, di finanziare il finanziamento che le banche fanno agli altri. È quello che con termini tecnici si definisce la diminuzione del costo del denaro. Del denaro naturalmente altrui. Quanto al denaro proprio, se il cittadino non imprenditore per avventura ne avesse bisogno una piccola dose aggiuntiva, non si sa mai, nella vita può sempre capitare, scoprirebbe che il suo costo non è calato affatto. Il sistema, per dirla con le ispirate parole del ministro Dini, soffre di una certa rigidità al ribasso, come a dire che gli unici sconti che applica senza por tempo in mezzo sono quelli a proprio favore. Dei mutui sulla casa, che garantiti come sono dalla casa medesima sono l'unica forma di finanziamento a cui un salariato ha qualche speranza di accedere, si è parlato abbastanza in questi giorni per capire che le banche, prodi o non prodi, ad adeguarle al nuovo livello del costo del denaro non hanno la minima idea di permettere di estinguere quelli attualmente in corso per aprirne altri a condizione più favorevole, neanche. Altri tipi di prestito provate se riuscite a farlo rifare senza ricorrere agli usurai, che infatti ormai si fanno pubblicità con i volantini inseriti sotto i tergi cristalli delle auto parcheggiate, e vedrete, sappiatemi dire. Naturalmente il cittadino normale debiti non ne fa e pensa di non doverne mai fare. Il suo conto corrente in cifre assolute è così esiguo che dell'ulteriore calo degli interessi attivi è difficile che s'accorga, ed è difficile che s'accorga in genere che qualsiasi successo dell'economia nazionale in un modo o nell'altro va sempre a beneficio di qualcun altro. ed è meglio che non se ne accorga naturalmente, perché se cominciasse a chiedersi come mai a ogni risultato trionfalmente acquisito dal governo e dall'opposizione, a ogni sbandierato progresso a livello generale corrisponda sempre un immediato regresso del suo livello particolare, se cominciasse a farsi domande di questo genere andrebbe in crisi l'intera struttura ideologica del nostro felice paese, che si fonda notoriamente su un'ostinata rigidità al ribasso quando si tratta di dare e una sperimentata flessibilità al rialzo quando si tratta di prendere. Tanto gli opposti s'annullano e peggio per chi ci resta in mezzo.